La Francia è un altro paese molto amato. Ha la Torre Eiffel a Parigi e la Costa Azzurra. I visitatori apprezzano il cibo francese, come il coq à vin e gli escargots. La Francia è famosa per il suo pane e i suoi dolci deliziosi. I turisti amano anche il vino in Francia.